Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia, benvenuti a Focus Economia. Siamo in diretta da Trento, l'ultima giornata del Festival dell'Economia, quindi quale luogo più adeguato per questa trasmissione. Il numero per intervenire in diretta, gli sms è come sempre il 349-238-6666. I temi di oggi, naturalmente uno... lo avete già sentito all'interno del nostro giornale radio, sono le raccomandazioni della Commissione Europea per l'Italia che riguardano naturalmente le questioni di bilancio e soprattutto il piano nazionale di riforma, un giudizio quindi tanto sui conti pubblici e sulle prospettive dei conti pubblici quanto appunto sul piano nazionale di riforme proposto dall'Italia. Da dire che è chiaramente un documento prodotto da vertici politici della Commissione Europea che sono ormai in scadenza. Non a caso ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, proprio qua da Trento, e poi lo riascolteremo, ha detto: non sono spaventato, non mi interessa tanto quello che la Commissione Europea ci dirà domani quanto quello che i governi decideranno sulla Commissione Europea, quasi a dire insomma la Commissione faccia pure le sue raccomandazioni e però il punto politico è un altro, il pallino ce l'hanno in mano i governi e dal punto di vista delle trattative vedremo che cosa succede. Ci sono molti elementi, li avete sentiti poco fa nella diretta di Beda Romano da Bruxelles. E poi più avanti, naturalmente, proprio in apertura di trasmissione, li andremo ad approfondire. Gli altri temi che vogliamo toccare sono innanzitutto all'Italia, perché finalmente questa lunga telenovela è arrivata a una chiusura. L'unione è fatta, Etihad pagherà circa 600 milioni di euro per una quota tra il 45 e il 49%. Ci sono naturalmente una serie di nodi da sciogliere, la famosa questione degli esuberi, come reagiranno i sindacati che a quanto pare sono divisi anche al loro interno. E poi altra questione rilevante è da notare: quale sarà il destino di Malpensa, perché come sapete dalle voci che sono circolate, dalle indicazioni che sono arrivate da parte degli arabi, insomma Etihad a Malpensa non è che sia particolarmente interessata, volendo privilegiare Linate da questo punto di vista. L'altro tema è la RAI e ancora torniamo su questo scontro che c'è stato tra il Presidente del Consiglio Renzi e tra il Governo, che ancora oggi col Vice Ministro Morando, al quale viene chiesto ogni giorno la stessa cosa, gli chiedono: confermate i 150 milioni di euro di tagli alla RAI? E Morando dice: sì, confermiamo i 150 milioni di euro di tagli alla RAI. Ieri Renzi è stato molto duro con i sindacati che hanno proclamato sciopero per l'11 giugno. I sindacati hanno fatto non un passo indietro, però hanno detto: prendiamo atto che il Presidente del Consiglio vuole discutere anche di servizio pubblico, però per il momento lo sciopero resta, anche se a quanto pare il fronte interno si sta dividendo. C'è anche qualche nome noto della RAI che dice: ma insomma, su questi temi, sul tema dei risparmi, si può ragionare. Questi saranno i tre temi di oggi, poi sentiremo anche qualche audio molto breve di Sergio Marchionne, che è intervenuto ieri qua al Festival dell'Economia. La questione di Fiat sarà approfondita, ve lo anticipo già da oggi, nei prossimi giorni, forse domani stesso, da Sebastiano Barisoni, che tornerà al timone di questa trasmissione. Iniziamo come sempre, prima delle notizie in breve, per carità. I mercati. Mercati oggi aperti, scambi più esili rispetto al solito, come era prevedibile. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, anzi auguri a tutti per la festa della Repubblica. Mezzo punto percentuale di guadagno sul FTSE MIB, lo 0,63% sul FTSE All Share. UbiBanca guadagna il 2,74% ed è il titolo migliore. Complessivamente va abbastanza bene tutto il settore bancario. La Pop Milano guadagna l'1,42%, Intesa San Paolo lo 0,73%. Ebbene fanno oggi anche Terna più 1,85, A2A più 1,82, Pirelli più 1,78, Mediolanum più 1,51, in fondo alla listina ST Microelectronics meno 3,06%, Ferragamo meno 0,9%, Atlantia meno 0,88%, Prismia meno 0,65%, Exor meno 0,6%, l'euro a quota 1,36,07 contro dollaro. Le notizie in breve di oggi. sostanzialmente fermo oggi a 1261 dollari l'oncia, il petrolio stabile a 102,6 dollari al barile. Notizie interessanti dagli Stati Uniti, dove Obama ha deciso che entro il 2030 le centrali elettriche americane dovranno ridurre le emissioni di gas inquinanti del 30%, stabilito per decreto. Una decisione con la quale evidentemente Obama punta a rilanciare la leadership americana nella lotta all'effetto serra e al cambiamento climatico. L'indice ISM manifatturiero, che è quello che serve a monitorare l'andamento del settore della manifattura americano, è calato in maggio a 53,2 da 54,9 di aprile, dato sotto le attese degli analisti. Poi parleremo di Alitalia, ma ci sono intanto i dati sul trasporto aereo. Nel 2014 il volume d'affari globale dovrebbe raggiungere i 746 miliardi di dollari, pari all'1% del PIL mondiale, numero di passeggeri che sale a quota 3,3 miliardi, beneficiando di un crescente network globale, e tariffe aeree in calo del 3,5% in termini reali. Molto interessante il dato sull'inflazione tedesca. Questa è una settimana decisiva, perché la Banca Centrale Europea finalmente dovrà trarre le sue conclusioni da quella che abbiamo detto: se non è deflazione, poco ci manca, e quindi, come dire, intervenire più concretamente. Qual è il punto? Che lo statuto della Banca Centrale Europea prevede che si mantenga l'inflazione intorno al 2%, e questo vuol dire che non deve scendere troppo sotto e che non deve andare troppo sopra. Allora, l'inflazione tedesca è scesa più di quanto previsto dagli analisti. Secondo l'Istituto Federale di Statistica, l'indice armonizzato dei prezzi su base annua è aumentato dello 0,6% contro il più 1,1 di aprile. Su base mensile i prezzi sono addirittura in discesa dello 0,3%. Gli analisti, tra l'altro, avevano puntato su un tasso annuo pari ad un più 1%. Questo vuol dire che siamo con uno 0,4% in meno rispetto alle attese. Sulla Bild arriva un appello del mondo finanziario tedesco contro l'abbassamento dei tassi ulteriore da parte della BCE. Dicono: i tassi bassi espropriano i risparmiatori, anche se probabilmente l'azione della BCE non si concentrerà sui tassi. Poi magari più avanti ne parleremo anche nel corso della trasmissione, commentando anche le vicende europee. Un François Hollande in super crisi elettorale, come sapete, crisi da post elezioni, gioca la carta del taglio delle regioni. 12 regioni al posto delle 22 attuali, e risparmi fino a 25 miliardi di euro. Sono indiscrezioni, il progetto dovrebbe essere presentato durante il Consiglio dei Ministri del 18 giugno. E poi c'è l'Italia. Iniziamo da alcune delle frasi del Presidente del Consiglio ieri, Matteo Renzi. Una delle più rilevanti, oltre a quell'attacco frontale ai sindacati e alla RAI, è sicuramente questa ipotesi di un decreto sblocca Italia. Si vogliono di fatto sbloccare una serie di lavori fermi. Immaginiamo per il momento, anche se i dettagli non sono ancora chiari, siamo ancora a livello di annuncio: rigassificatori, tratte autostradali. Dunque, sentiamo Renzi. Entro la fine del mese di luglio, con un provvedimento ad hoc che io definisco sblocca Italia, perché salva Italia, cresce Italia, dorme Italia, coccola Italia, sblocca Italia, che è la vera cosa di cui noi abbiamo bisogno, di sbloccare, di lasciar fare alla gente quello che la gente vuol fare. Il pubblico non salverà. Il pubblico deve consentire a chi ha voglia di fare e intraprendenza di fare, di poterlo fare. Cioè, abbiamo bisogno di liberare le energie, giocando un ruolo pubblico in questo, perché questo è il ruolo pubblico, ma consentendo di farlo. Ecco, questo provvedimento che noi realizzeremo, abbiamo discusso a lungo La settimana scorsa abbiamo visto con una serie di operatori, abbiamo visto con il ministro Padoa, con il ministro Guidi, con la Cassa Depositi e Prestiti. Questo tipo di provvedimento qua avrà un effetto immediato, perché sul singolo bene ci sarà la possibilità di, nel rispetto delle norme, ma con norme eventualmente ad hoc, con norme di interesse generale che abbiano però una possibilità di superare i vincoli, noi siamo pronti a sbloccare una serie di interventi che sono fermi da 30 anni, 40 anni. Ha ragione l'ascoltatore che mi fa notare, non abbiamo dato gli indici americani all'inizio, diamoli: Nasdaq -0,3%, Standard & Poor's 500 -0,06%, Dow Jones -0,04%. Se si vuole far notare qualcosa al Presidente del Consiglio, a Renzi, che dice, insomma, cita i vari nomi di possibili decreti, diciamo che il Coccola Italia ancora ci manca, ad essere sinceri. A proposito dello Sblocca Italia, Alessandro Beulche del NIMBY Forum, loro passano il tempo anche a studiare quelle che sono proprio le opere bloccate. È intervenuto oggi ad Effetto Giorno, sentiamo cosa ci ha detto. Le opere bloccate, secondo il nostro censimento, sono arrivate al numero di 354, questo l'anno scorso, opere viarie, ferroviarie, centrali per la produzione di energia, anche rinnovabile, insomma qualsiasi tipo di cantiere si voglia realizzare in Italia, oggi è la maggior parte, 354 appunto, è il numero di quelle bloccate. Sarò molto curioso di vedere che tipo di lista stenderanno i sindaci, perché ci sono alcuni casi in cui sindaci stessi, piuttosto che diciamo politici locali, presidenti della regione e via discorrendo, sono essi stessi parte del fenomeno più che NIMBY, come dicevate direttamente correttamente, fenomeno NIMBY, e quindi diciamo territorio e politica locale che si mette di mezzo e per spesso per proselitismo elettorale, quindi per ergersi un po' a paladini della difesa del territorio, si mettono di traverso e non permettono la realizzazione di varie opere. Ricordo una su tutte, un rigassificatore, quello della Shell, 2001 era l'avvio del progetto, 2007, quindi 6 anni per fare le carte, quindi per mettere insieme tutte diciamo le procedure per ottenere le autorizzazioni che poi quel tipo di progetto ottenne la valutazione di impatto ambientale positiva del Ministero dell'Ambiente, eccetera, eccetera, però il decreto non fu mai firmato dal presidente della regione di allora, cioè Lombardo. La Shell e la ERG, che erano le imprese, diciamo, la partnership che voleva realizzare questo tipo di rigassificatore, ripeto, autorizzato dai vari livelli centrali e non solo che avevano il potere di autorizzare questo tipo di iniziativa, a un certo punto se ne sono andati dopo aver speso circa 25-30 milioni di euro solamente in procedure senza aver neanche messo un mattone e avviato un cantiere. Quindi sì, certamente la politica locale è anche parte del problema. Bene, abbiamo cambiato base ma non siamo ancora venuti al primo tema di oggi. Iniziamo però perché prima vorrei farvi sentire un'altra cosa, è un tema che approfondiremo più avanti ed è il tema della RAI, che fa arrabbiare in tanti. Già vedo gli SMS che ci arrivano. Ieri Renzi è stato veramente durissimo e devo dire la verità, è stato uno dei passaggi più applauditi del suo intervento. Ora, ha ragione, non ha ragione, non lo so, probabilmente degli sprechi là dentro ci sono da tagliare. Comunque risentiamolo perché, insomma, ripeto, molto molto duro. Io sono abbastanza colpito del fatto che la polemica sulla RAI nasce da un finto problema. Nessuno di noi ha chiesto di fare tagli ai programmi della RAI, ai contenuti della RAI. Noi abbiamo detto che in un momento in cui il sistema paese contribuisce alla riorganizzazione dello Stato, noi diamo alla RAI, attraverso un decreto legge, due possibilità. Uno, di riorganizzare le sedi regionali. Due, di vendere RaiWay, operazione che era già stata realizzata sostanzialmente, non concretizzata negli anni 2000-2001, e che un intervento del ministro Gasparri, a seguito del cambio di governo, bloccò. Rai Way non è decisivo ai fini del funzionamento della Rai, quindi si può vendere almeno una parte, che è stimata in oltre 170 milioni, una parte minoritaria di Rai Way. Noi abbiamo inserito una richiesta di contributo da parte della Rai pari a 150 milioni, cioè meno del valore di Rai Way, dando la possibilità di vendere Rai Way e di riorganizzare. Questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle, lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte. Se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni, anziché il 48 prendevo il 42,8. Vogliono fare sciopero? Lo facciano. E poi andiamo a confrontare i numeri della RAI e quanto costano le sedi regionali. Venga, noi non abbiamo fretta, non abbiamo furia. Vogliono venire a fare questa discussione su questi numeri? La facciamo. Beh, insomma, lo avete sentito, eh? C'è già chi ci scrive, ora basta, la RAI va venduta, non può pesare sul contribuente. Chi torna a proporre, se ne ha parlato anche nelle settimane scorse, era circolata, far prelevare la quota abbonamento tramite la bolletta dell'Enel, se ne è discusso e se ne continua a discutere molto. Era presente, come si diceva, anche l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne. Ha parlato naturalmente molto di Fiat e ci torneremo nei prossimi giorni, ma ha parlato anche di politica e di Renzi. La sua agenda è l'unica possibile. Sentiamo. Io vorrei che quello che abbiamo sentito oggi da Presidente Renzi si facesse. Diamo lo spazio di portare avanti questa agenda di riforme e in effetti di far ripartire l'Europa con un indirizzo molto chiaro, quello di creare lavoro. Il resto non conta più, no? Cioè quel calvinismo che si è sviluppato in Germania, che agli inizi posso pure capire, sul rigore finanziario eccetera, adesso non ha più spazio. Guardi, l'America non l'ha seguito, no? L'America con quel calvinismo tedesco l'hanno ignorato. Ero lì io quando succedeva. C'è stata una decisione molto chiara presa a Washington che questa politica di rigore finanziario non avrebbe portato i risultati necessari. Quindi l'agenda di Renzi oggi io credo sia l'unica agenda che abbiamo come paese, che abbiamo come Europa, e spero che lo ascoltino. Spero che lo ascoltino. Marchionne, e dunque veniamo proprio al tema dell'agenda europea. La notizia di oggi sono le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. Dove la cosa che fa notizia in questo momento è un qualcosa che è contenuto dentro queste raccomandazioni e che però non è forse abbastanza esplicito, volutamente forse, perché Bruxelles dice: in base alla valutazione del programma e delle previsioni della Commissione, il Consiglio è dell'opinione che servono sforzi aggiuntivi anche nel 2014 per rispettare i requisiti del patto di stabilità. Vuol dire chiediamo all'Italia una manovra aggiuntiva? Non è chiarissimo questo. Probabilmente è complice anche una situazione politica particolare, insomma, siamo subito dopo le elezioni. E ancora, l'Italia deve rafforzare le misure di bilancio per il 2014, visto lo scarto nel rispetto della regola di riduzione del debito. Lo scenario macroeconomico sul quale si fonda il programma nazionale di riforme dell'Italia è leggermente ottimistico, solo leggermente, dice Bruxelles. Le misure per il 2015 non sono sufficientemente dettagliate. A quanto si apprende, qua saremmo curiosi di conoscere la fonte. Forse la sospettiamo, però insomma io vi leggo l'agenzia per come è uscita. Senza virgolettati. È stata evitata all'ultimo minuto la bocciatura della richiesta italiana di far slittare di un anno il pareggio di bilancio, no? Perché La Commissione aveva pensato evidentemente di inserire questa bocciatura per l'Italia della richiesta italiana di far slittare il pareggio di bilancio. A quanto si è appreso, la frase è stata infatti cancellata dal testo delle raccomandazioni rese note dalla Commissione europea su iniziativa del commissario italiano Antonio Tajani. Si è appreso, probabilmente la fonte sarà, immagino, lo stesso Tajani. Allora, garantire una migliore gestione dei fondi europei con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, aumentare l'intensità delle riforme. Sentiamo un passaggio del commissario agli affari economici e monetari, Olli Rehn. Italy is also experiencing excessive macroeconomic imbalances. Anche l'Italia sta vivendo eccessivi squilibri macroeconomici, visto il suo alto livello di debito pubblico e la sua debole competitività economica. L'Italia è impegnata in un significativo programma di riforme e ora è il momento di aumentare l'intensità delle riforme, in modo da creare le condizioni per sostenere una crescita duratura e forte sia dell'economia che dell'occupazione. Alla luce dell'alto livello di debito pubblico del Paese, è necessario proseguire sul cammino di un consolidamento dei conti pubblici che sia di sostegno alla crescita e che sia basato sulla razionalizzazione della spesa pubblica e una più efficace ed efficiente tassazione. Per paesi come l'Italia, con eccessivi squilibri, consideriamo che il programma di riforme risponda in modo appropriato alle grandi sfide che abbiamo identificato a marzo. Ecco perché non stiamo proponendo la procedura per squilibri eccessivi, ma vigileremo molto da vicino sulla risposta che verrà data alle nostre osservazioni odierne. È con noi qua in studio il professor Sandro Trento, che è docente di economia nella, possiamo dire, omonima università, l'Università di Trento. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, mi sembra, come dire, grandissimo equilibrio, per così dire, da parte della Commissione, no? Cioè un tentativo di dire e non dire, nel senso che se lo squilibrio c'è, allora dimmelo che devo fare una manovra aggiuntiva. Ma io forse la metterei ancora in positivo e direi: non c'è stato un provvedimento per appunto squilibrio eccessivo. Potevano intervenire per l'aumento del debito e potevano anche intervenire e accusarci di aver sforato anche il vincolo del deficit, mentre invece in questo momento, e ci tengo a dirlo, soltanto 6 paesi non sono sottoposti alla procedura dei disavanzi eccessivi, tra i quali l'Italia e la Germania. Tutti gli altri paesi europei sono sottoposti alla procedura di disavanzo eccessivo. Quello che sembrerebbe, dalle parole diciamo ancora non molto chiare, è che la Commissione stima che il deficit strutturale, cioè al netto della congiuntura e dei provvedimenti una tantum, sia oggi circa dell'1%. E non dovrebbe superare lo 0,5% del PIL. Se questo è vero, se questa diciamo deduzione è vera, potrebbe essere necessario un piccolo riaggiustamento. Ecco, questo però è un'illazione ancora, non è chiaro che sia proprio così. Sì, decisamente non è chiaro. Voglio tornare su questo tema e anche su altri pezzi di queste raccomandazioni europee, a partire da... insomma, una cosa che è stata ripetuta moltissimo negli ultimi anni: l'Italia deve aumentare la tassazione sui consumi e sugli immobili e tagliare le tasse sul lavoro. È una cosa che viene ripetuta da anni. Io ho l'impressione, guardando anche qualche commento anche di qualche economista su Twitter, che la tassazione sui consumi sia in realtà tra accise e IVA, che tra le più alte, sia già piuttosto elevata. Però vorrei chiedere conforto su questo al professor Sandro Trento, ma dopo la pausa. Focus Economia. Ancora di nuovo in diretta dai nostri studi a Trento, in Piazza Pasi, dove si chiude tra poco in realtà il Festival dell'Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. A commentare adesso le raccomandazioni della Commissione Europea. Allora, professor Sandro Trento, prima ancora di andare sulle singole cose, a partire dalla consueta raccomandazione, spostate la tassazione su consumi e immobili e toglietela dal lavoro, vorrei capire da lei, secondo lei, quanto risentono queste raccomandazioni di una oggettiva condizione dell'Italia e quanto risentono invece di una situazione politica di transizione nella quale la Commissione si deve rinnovare e con un decisivo contributo dell'attuale governo italiano. Sì, penso che c'è questo aspetto di transizione e nella prova il fatto che ancora le raccomandazioni non sono molto chiare e dopo i risultati delle elezioni europee mi sarebbe risultato sorprendente che la Commissione rifiutasse davvero la richiesta dell'Italia, se c'è stata, di spostare di un anno il pareggio di bilancio. Quindi vediamo che cosa succederà davvero. E detto questo, con riferimento alla questione dello spostamento del carico fiscale, la Commissione sembra dire, come molti dicono oramai da anni, che c'è un eccessivo carico fiscale sul lavoro e sul capitale e che questo andrebbe spostato sui beni immobili e sui consumi. Allora, sui beni immobili apertamente dicono che vanno approvati i decreti della delega fiscale che riguardano la riforma del sistema catastale, quindi chiedono apertamente di intervenire sulla tassazione sugli immobili. Qui ovviamente l'Italia sconta il fatto che abbiamo passato quanti mesi per discutere dell'IMU, SIMU, no, e questo ovviamente ha ridotto la nostra credibilità agli occhi della Commissione europea, e diciamolo. Sulla questione dei consumi, allora io sono stato sorpreso l'altro giorno qui a Trento dal ministro Padoan. Il ministro Padoan ha fatto un lungo ragionamento sul fatto che vorrebbe che la crescita italiana fosse del 3% e ha anche detto: per avere il 3% mi starebbe benissimo 1,2% di crescita effettiva e 1,8% di inflazione. Magari avessimo 1,8% di inflazione, l'ha detto tre volte. Come si fa a far crescere l'inflazione? Allora, l'Italia a marzo di quest'anno ha un'inflazione, diciamo, del 0,3%, minimo storico mai raggiunto, credo, nell'ultimo periodo. Quindi Padoan ha detto espressamente che vorrebbe un aumento dell'inflazione. E per far crescere l'inflazione, a parte confidare negli interventi di Mario Draghi a Francoforte, ho impressione che il governo forse abbia in mente interventi sull'IVA, sulle tariffe pubbliche, cioè che questo ragionamento non sia del tutto isolato della Commissione europea. Cioè, per far crescere l'inflazione forse potremmo avere interventi sulla tassazione sui consumi, proprio perché siamo in una situazione di deflazione quasi, abbiamo un'inflazione troppo bassa, 0,3, e questo ci pregiudica anche la possibilità di crescita. Naturalmente, allora, anche se, come dire, l'ipotesi non è un'ipotesi, per carità. Cioè, Padoan non si è sbilanciato, però mi ha colpito, ha passato... Che l'abbia ripetuto tre volte. Tre volte, sì. 1,8 di inflazione. E per fare inflazione 1,8 bisogna agire o sulla quantità di moneta, che dipende da Draghi, oppure appunto sulle tariffe e sulle tariffe pubbliche, quindi energia, telefoni e così via, oppure sull'IVA. Non è che vedo molti altri modi per far crescere l'inflazione da parte del governo. Naturalmente. Intanto parla Stephen Seibert, il portavoce di Angela Merkel, rispondendo a una domanda sulle proposte di Matteo Renzi per l'Europa. Dice: per il governo tedesco è un buon consiglio attenersi alle regole stabilite insieme. Questo riguarda anche il patto di stabilità e di crescita. Le agenzie lo danno come flash, a me sembra quasi una dichiarazione di rito. Comunque, a proposito di tutto questo, a proposito del governo dell'Europa, risentiamo che cosa ha detto Renzi ieri a questo punto. No, non lo risentiamo? Chiedo a Milano... Hanno un problema tecnico, evidentemente con questo file di Renzi sulle valutazioni, sulle poltrone, sull'indirizzo. Ve lo riassumo comunque. Renzi ha detto che non ha particolari timori sulle valutazioni che la Commissione deve fare. La vera questione è che cosa i governi immaginano dalla prossima Commissione europea. Ancora ha detto: non è il punto di Juncker o meno, quindi non è un tema di poltrone, ma è un tema di cose da fare. Possiamo sentirlo? Via. Non ho particolari timori tra oggi e domani, nel senso che la Commissione europea potrà fare le valutazioni, farà le valutazioni che deve fare. La vera questione oggi non è che cosa la Commissione europea dice al governo italiano, ma che cosa i governi immaginano della prossima Commissione europea. Io credo che oggi ci sia un allineamento astrale molto diciamo unico e irripetibile. C'è la convinzione, primo pianeta allineato, che le politiche economiche in Europa non sono state la risposta decisiva, non voglio dire corretta o sbagliata, per uscire dalla crisi. È un dato di fatto. Abbiamo capito che dobbiamo cambiare linea economica, numero uno. Numero due, bisogna cambiare i vertici delle istituzioni, perché ci sono state le elezioni e perché è scaduto il quinquennio. Io non credo che ci sia un problema Juncker. Per me Juncker può essere un nome. Juncker non è il nome, perché affermare che la democrazia interna dell'Europa si risolva semplicemente individuando Juncker mi sembra una discussione che non colga gli aspetti che sono emersi da questo voto. O la politica riprende la casa in Europa e non lascia fare soltanto alla tecnocrazia, o la politica torna a fare il suo mestiere, cioè torna ad avere una visione alta di indirizzo e una capacità di decisione e di coraggio da parte dei politici di intervenire, o se la politica non fa questo, nessuna misura economica ci salverà. Così Renzi, ci scrive Paolo da Milano sull'ipotesi. Oh, attenzione, non è che il governo sta ipotizzando un aumento dell'IVA, attenzione, per carità, è una valutazione del professor Sandro Trento, sentendo il ministro Padoan che per tre volte ha detto mi basterebbe avere una crescita dell'1,2 con un'inflazione all'1,8. Testuale. E quindi Paolo ci scrive: a che novità, vogliono aumentare l'inflazione, così aumentiamo l'IVA, qualsiasi difficoltà si risolve aumentando le tasse secondo questi geni e basta, mette tutto attaccato. Volutamente, so che non è un errore di battitura. Qualcun altro mi scrive su Twitter: la Commissione europea sposta la data di pareggio di bilancio e la sua credibilità. Le tasse vanno allocate diversamente e abbattute. Infine, professore, l'altro aspetto della medaglia, l'altra faccia della medaglia, che è a Francoforte l'altra faccia della medaglia. Giovedì siamo in attesa di una decisione da parte della Banca Centrale Europea che a questo punto, l'abbiamo detto alla fine già venerdì, non potrà più limitarsi all'annuncio Draghi, evidentemente, come ha fatto col famoso whatever it takes, qualsiasi cosa per salvare l'euro. È rimasto un annuncio naturalmente per lungo tempo, anche fortunatamente grazie alle buone condizioni di mercato, per così dire. Che cosa possiamo attenderci secondo lei? Degli interventi, presumo. Anche Draghi ha fatto capire che la Banca Centrale Europea è preoccupata di questa persistente bassa inflazione e del rischio di un avvio di una spirale deflazionistica. L'area dell'euro ha un'inflazione che è allo 0,5%, la più bassa dall'avvio dell'unione monetaria, e questo è ben al di là dell'obiettivo del 2%. Sento una cosa, perché oggi è arrivato un appello sulla Bild del mondo della finanza tedesco che dice che si schiera contro l'abbassamento dei tassi, ma mi pare che la direzione di Draghi non sia quella, anche penso, perché no, infatti, che tipo di azione potrebbe essere? Penso azioni di tipo quantitativo, azioni anche sul mercato dei titoli, azioni non convenzionali, quindi diciamo, anche perché per quanto riguarda i tassi siamo su livelli minimi storici, quindi mi sembra difficile a questo punto intervenire sui tassi, rischia poi di porre la Banca Centrale in una situazione in cui non avrebbe più munizioni nelle situazioni di emergenza, quindi mi sembra difficile che possa intervenire. Va ricordato che un paese in una situazione di quasi deflazione come il Giappone, la banca centrale giapponese alcuni mesi fa ha preso come obiettivo il 2% di inflazione e ha annunciato che la base monetaria verrà quasi raddoppiata nell'anno in corso, quindi il Giappone sta seguendo una politica di quantitative easing molto forte. Non dico che l'Europa farà lo stesso, ma mi aspetto degli interventi di tipo quantitativo. L'ultima domanda invece che le voglio fare, perché ci fa notare ancora sulle raccomandazioni della Commissione Europea, ci fa notare un ascoltatore, dice, molto divertente la parte del rapporto in cui si definisce leggermente ottimistico lo scenario previsto dal governo. Lei è stato tra l'altro direttore del Centro Studi di Confindustria, quindi diciamo la mano sull'economia ce l'ha, insomma queste cose le conosce bene. Vorrei capire se questo più 0,8% previsto dal governo le sembra credibile oppure no. È abbastanza complicato, diciamo, qua stiamo parlando su decimali in realtà. E effettivamente il primo trimestre è andato molto peggio di quello rispetto a quello che ci si aspettava, con un segno negativo, e questo riduce le prospettive di crescita. Abbiamo una situazione abbastanza confusa, abbiamo alcuni indicatori positivi. Penso per esempio all'acquisto di macchinari, i dati dell'UCIMO sono stati molto positivi, no? Un aumento del 79% dell'acquisto di macchinari, che ci sembra segnalare il fatto che le imprese stiano riammodernando il loro apparato produttivo. D'altro lato abbiamo appunto segnali invece di stagnazione dei consumi e di non ripresa anche dal punto di vista degli investimenti. Quindi obiettivamente ci potrebbe essere un eccessivo ottimismo, però è difficile, molto complicato in questo momento capire che cosa faremo alla fine dell'anno. Bisogna valutare anche l'impatto che la manovra che il governo ha approvato potrebbe avere nel corso dell'anno, e questo ancora non è chiaro. Qui diciamo interessante sono stati i dati dell'altro giorno della Banca d'Italia, che ci ha ricordato come dei provvedimenti adottati dal governo Monti, soltanto il 42% sono stati trasformati in decreti operativi. Questo ci dà un'idea dei tempi lunghissimi che ci vogliono in Italia per trasformare le riforme in atti concreti e quindi in crescita. La ringrazio, grazie al professor Sandro Trento. Ribadisco anche ad Ada che ci scrive, qua nessuno ha ipotizzato come dire, un aumento dell'IVA, nessuno ha ipotizzato un aumento, è un'illazione del professor Trento su parole del ministro Padoan, che non ha mai citato un aumento dell'IVA, ha parlato solo di inflazione sostanzialmente, traffico. Focus economia. Arrivare anche sms sulla RAI, non vi preoccupate, ne parleremo più avanti alle 18.10, subito dopo il giornale radio. Intanto è il momento della borsa. Giornata positiva, più 0,77% sul FTSE MIB, più 0,82% sul FTSE All Share, in un quadro che complessivamente in Europa non è in realtà particolarmente positivo. Parigi scende dello 0,08%, Francoforte sale dello 0,07%, l'America, vede il Dow Jones in guadagno dello 0,14% e in lieve calo tanto il Nasdaq, quanto lo Standard & Poor's 500. Leonora Micheli, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, come mai Milano fa così meglio delle altre? Sì, tra l'altro nonostante diciamo Bruxelles proprio quest'oggi abbia comunque rimandato al prossimo autunno il voto sull'Italia, fa bene perché soprattutto si è scommesso sulle banche. Le banche, se guardiamo, sono state gettonate oggi, alcune hanno fatto molto bene come ad esempio UBI più 3,77%, perché si riflette a freddo sulle parole pronunciate la scorsa settimana da Ignazio Visco, il governatore di Banca Italia, che si è mostrato favorevole a un processi di fusioni e acquisizioni proprio in ambito bancario, ovviamente a patto che vadano a recuperare l'efficienza degli istituti. Comunque potrebbe aprirsi un giro di danze. Proprio oggi tra l'altro il Corriere della Sera ipotizza che ci potrebbe essere un'aggregazione tra il credito valtellinese e la Banca Popolare di Sondrio. Non a caso i due titoli sono stati ben gettonati. Bene anche UbiBanca, più 3,77, sempre tra i bancari rimango. La Popolare Milano, più 1,42%, Unicredit, più 1,17%, Intesa San Paolo, più 1,06%. Un occhio in particolare oggi su Monte dei Paschi, no? Sì, le azioni del Monte dei Paschi oggi hanno registrato un andamento un po' volatile, comunque hanno chiuso in progresso dello 0,68%, è scattato il conto alla rovescia per giovedì, giorno in cui si dovrebbe riunire il consiglio di amministrazione della banca per decidere il prezzo di emissione delle nuove azioni relative all'aumento di capitale da 5 miliardi, operazione che l'istituto senese stima di lanciare il prossimo lunedì e che dovrebbe concludersi poi a luglio. Il titolo Fiat oggi è stato in calo, da quel che ho capito, per quasi tutta la seduta, poi un lieve balzo nel finale, ma mi sembra che tutta la borsa italiana più o meno sia andata lievemente meglio nel finale, ha chiuso quasi sui massimi, più 0,20% comunque. Sì, Fiat ha registrato un andamento, cioè fino a poche battute prima della chiusura era un titolo che perdeva punti, poi con un colpo di reni ha chiuso in positivo. C'è molta attesa per l'annuncio di domani relativo alle immatricolazioni italiane, sarà dato a mercato chiuso. Intanto quest'oggi però è stato reso noto che le immatricolazioni in Francia sono andate abbastanza male, mentre infatti il mercato in generale, il mercato francese ha registrato un progresso dello 0,1% delle vendite, Fiat ha accusato un calo del 6,2%, sono andati male soprattutto il marchio Fiat e il marchio Alfa Romeo, che addirittura ha accusato una flessione superiore al 35%, mentre sono andate bene le Jeep. A scendere, Campari in perfetto pareggio, Exor meno 0,16%, Luxottica meno 0,36%, meno 0,4% Tots e Prismian, Ferragamo mezzo punto percentuale di calo, Atlantia meno 0,64%, adesso ci arriveremo ad Atlantia, ma ST Microelectronics è decisamente il titolo peggiore sul FTSE MIB, meno 2,6%. Sì, in questo caso ST ha pagato un report poco favorevole di Citigroup, dove gli analisti addirittura consigliano di vendere le azioni, soprattutto perché hanno fatto molto bene da inizio anno, alla fine hanno guadagnato il 27%, secondo gli esperti della banca d'affari a 7,16 euro il prezzo attuale, è un prezzo troppo generoso nei confronti dei fondamentali della società. Questo per quanto riguarda ST, infine Atlantia, meno 0,64%. Sì, Atlantia è rimasta un po' sotto i riflettori per tutta la seduta, soprattutto gli analisti e anche gli investitori cercano di mettere nero su bianco quale possa essere l'impatto dell'accordo raggiunto tra l'Italia e Etihad. Ricordiamo infatti che Atlantia possiede il 7,4% della compagnia di bandiera, non solo, ma ha recentemente incorporato Gemina Aeroporti di Roma e quindi alla fine dovrebbe beneficiarne, visto che proprio sullo scalo romano dovrebbero salire da 85 a 100 i voli di lunga percorrenza. Tutti i report sono favorevoli su Atlantia proprio alla luce di questo accordo raggiunto sulla compagnia di bandiera, d'altra parte appunto oggi le azioni hanno segnato il passo. I titoli negativi li abbiamo detti, quelli in positivo che non abbiamo citato, quelli quindi non bancari, Pirelli più 2,10, A2A più 2,05, Terna più 2%, Unipolsai più 1,82%, Mediolanum più 1,75%, Telecom Italia più 1,65%, Benesnam 1,5%, Finmeccanica più 1,25%, Iux più 1,23%, Enel Green Power più 1,07%, Saipem più 0,94%, tutto questo con l'euro, del quale adesso vi recupero la quotazione, a 1,36,04 contro dollaro. Hai parlato di Alitalia, Leonora, ci arriveremo tra l'altro subito dopo il giornale radio. Io intanto ti ringrazio e ti saluto, grazie Leonora Micheli di Radio Core Il Sole 24 Ore e buonasera. Buonasera a tutti. Noi ci fermiamo dunque, c'è una breve pausa, c'è il nostro giornale radio, il GR24, subito dopo ci ritroviamo, due temi caldi, quella che forse è la fine della telenovela Alitalia e poi la RAI. Focus Economia. nuovo buonasera da Simone Spezia e bentornati a questa seconda parte di Focus Economia in diretta da Trento, dove oggi si conclude il Festival dell'Economia. Dai nostri studi in Piazza Pasi, come sempre 349-238-6666 per i vostri sms. C'è la reazione arrivata via Twitter, il commento meglio, del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan alle raccomandazioni della Commissione Europea che sono arrivate oggi, che sono un po' la notizia di oggi. La Commissione Europea apprezza le riforme italiane, scrive Padoan, il debito è alto e lo sapevamo, acceleriamo le riforme e privatizzazioni per ridurlo in modo sostenibile. Poi c'è qualcuno che si sta divertendo, per modo di dire, a tirar fuori i singoli dettagli da queste raccomandazioni della Commissione Europea, tra cui per esempio il suggerimento, cioè si valuti se allineare le accise del diesel a quelle della benzina. Ora, io non ne capirò moltissimo e però mi chiedo anche perché la Commissione Europea debba occuparsi delle accise diesel e benzina, insomma. Comunque, il tema che vogliamo affrontare adesso è quello della RAI. A muso duro Renzi contro i sindacati che hanno deciso lo sciopero, uno sciopero previsto per l'11 di giugno contro i 150 milioni di taglio. Vi abbiamo fatto sentire prima il Presidente del Consiglio in apertura nelle nostre notizie in breve. E però, dato che è il punto di partenza, se vogliamo, ve lo facciamo riascoltare anche adesso, anche per chi non fosse stato in ascolto prima. Sentiamo. Io sono abbastanza colpito del fatto che la polemica sulla RAI nasce da un finto problema. Nessuno di noi ha chiesto di fare tagli ai programmi della RAI, ai contenuti della RAI. Noi abbiamo detto che in un momento in cui il sistema paese contribuisce alla riorganizzazione dello Stato, noi diamo alla RAI, attraverso un decreto legge, due possibilità. Uno, di riorganizzare le sedi regionali. Due, di vendere Rai Way, operazione che era già stata realizzata sostanzialmente, non concretizzata negli anni 2000-2001, e che un intervento del ministro Gasparri, a seguito del cambio di governo, bloccò. Rai Way non è decisivo ai fini del funzionamento della RAI. Quindi si può vendere almeno una parte, che è stimata in oltre 170 milioni, una parte minoritaria di Rai Way. Noi abbiamo inserito una richiesta di contributo da parte della RAI pari a 150 milioni, cioè meno del valore di Rai Way, dando la possibilità di vendere Rai Way e di riorganizzare. Questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle, lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte. Se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni, anziché il 48 prendevo il 42.8. Vogliono fare sciopero? Lo facciano. E poi andiamo a confrontare i numeri della RAI e quanto costano le sedi regionali. Vengano, noi non abbiamo fretta, non abbiamo furia, vogliono venire a fare questa discussione su questi numeri, la facciamo. Marco Mele del Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera, buonasera. Allora, vorrei sentirti innanzitutto un tuo commento su questo scontro tra il Presidente del Consiglio e i dipendenti della RAI, per certi versi anche politicamente inedito, no? Un Presidente del Consiglio di centrosinistra che va così a muso duro contro appunto i dipendenti RAI. Beh, inedito, sì, buonasera. Beh, inedito anche un Presidente del Consiglio proprio, non di centrosinistra, in quanto uno scontro così aperto, diciamo, non c'è mai stato. Cioè sì, c'è stato, insomma, ci sono stati tutti in altro modo, c'è il Consiglio dei Professori che si dimise con il governo Berlusconi, ma era una vicenda molto diversa. Qui le cose cambiano innanzitutto perché c'è uno sciopero, c'è un precedente contro il piano massima, comunque è uno sciopero indetto con molte divisioni, con il segretario della CISL ha detto spero di farlo rientrare, con lusinghe, giornalisti che hanno aderito, ma non in modo entusiasta. Quindi diciamo una situazione nuova. Il problema è che bisogna andare oltre le polemiche, perché il servizio pubblico è una cosa terribilmente seria per il paese, e qui non si sta molto capendo. Cioè, voglio dire, quando la BBC nel 2016, esattamente come la RAI, scade la Royal Charter, si è già aperto a lungo un dibattito in tutto il paese su cosa ci deve essere ancora un servizio pubblico. Risposta sì. Cosa deve fare, con quali risorse e con quale ruolo per il paese. Mi pare che tutti a occhio però chiedano una riforma della RAI, così com'è non funziona le regole della governance della Gasparri, non funziona ormai una tripartizione di reti e telegiornali nata ai tempi della lottizzazione della riforma del 75, una ADC, una TSI, una PC, ormai non funziona più. Quindi la RAI deve cambiare, questo però lo dice Renzi, come lo dice anche Lusinghe, come lo dicono anche i sindacati. Il problema è mettere tutti a un tavolo e in tempi brevi andare verso una riforma che finalmente, a mio avviso, dia alla RAI certezze nel senso di risorse, ma tagli il cordone umbilicale tra RAI e partito, ben sapendo che ovviamente potrebbero dire sì, ma tutti questi anni tante persone sono entrate perché raccomandate ai partiti, tanti programmi si sono fatti perché sì, certo, però a un certo punto bisogna dire basta, tagliare e andare avanti. Secondo me ci sono le condizioni per farlo, tanto più che c'è, o comunque nel 2016 scade la concessione, va rinnovata, quindi da adesso in poi si potrebbe, ci sono anche politici che oggi hanno detto siamo anticipiamo nel 2014 il rinnovo. Ma la RAI va cambiata, i 150 milioni mi pare che ormai sia inevitabile che vengano tagliati. Notavo tra l'altro che continuano a fare al vice ministro Morando la stessa domanda, conferma i 150 milioni di tagli, e lui continua, sì, io continuo a leggere la stessa agenzia tutti i giorni, la quale dice confermiamo i 150 milioni di tagli. Sì, la RAI è stata esentata dall'articolo prima, dal 20, che imponeva altri tagli alla spesa, eccetera. Sì. Però i 150 sono confermati, e confermate le due diciamo aperture tra virgolette, poi queste vanno interpretate su Railway e sedi regionali. Sì. Allora di questo voglio parlare con te, ma tra un attimo, perché prima abbiamo il traffico. InfoCert, il futuro digitale è adesso. Vi presenta Strade in diretta. Traffico di rientro verso le grandi città sull'autosole in direzione nord, rallentamenti e code a tratti tra Firenze e Barberino, tra Parma e Piacenza con ripercussioni sulla 15 della Cisa e poi tra Casal Pusterlengo e Lodi. Attenzione, su quest'ultimo tratto è in corso un forte temporale. Lungo la 14 Adriatica, code da Rimini a Imola e sul raccordo di Casalecchio verso l'autosole, trafficata la A4 tra San Giorgio di Nogaro e San Stino, di Livenza verso Venezia e poi tra Verona e Brescia e tra Ospitaletto e Bergamo in direzione Milano. Verso Genova lunghe code sulla 10 tra Andorra e Savona e poi rallentamenti tra Renzano e Voltri. Sulla 12 code a tratti verso nord da Rosignano a Colle Salvetti tra Forte dei Marmi e Santo Stefano di Magra e da Sestri a Genova. Verso Firenze particolarmente trafficata la Firenze-Pisa-Livorno dalla 12 a Pontedera. In direzione di Roma trafficata la Pontina da Pomezia, la 12 tra Santa Severa e Torrimpietra e poi la diramazione Roma Nord da Castelnuovo di Porto al Grande Raccordo Anulare. Infine molto trafficata la statale 16 Adriatica da Monopoli a Bari. È tutto, a più tardi. Focus Economia. Qualcuno mi scrive su Twitter: il muso duro di Renzi contro lo sciopero Rai pagherà positivamente in termini di consenso, come lo scontro sul tetto degli stipendi. Sarà pur vero, anzi è molto probabile, lo riconosce lo stesso Renzi, ma come ci faceva notare Marco Mele proprio un attimo fa, il tema di fondo è un altro: la riforma della Rai, come vogliamo questo servizio pubblico tutti noi cittadini. E quindi sì, pagherà in termini di consenso, però appunto il ragionamento è un po' più di respiro, è un po' più a lungo termine. Allora Marco Mele, molto brutalmente sui quattrini, su questa operazione da 150 milioni, tu insomma i conti li conosci, nelle pieghe dei bilanci Rai probabilmente gli spazi per trovare questo denaro, dico vendita di Rai Way o cessione di una parte di Rai Way, probabilmente ci sono o no? Oh, sì, probabilmente ci sono, anche qui però si tratta di capire che cosa fare, ovvero il Presidente del Consiglio dice Rai Way non è essenziale al servizio pubblico. Rai Way è la società che gestisce la trasmissione del segnale. Certo, in teoria, come è successo in altri paesi europei, la BBC ha ceduto la sua rete di trasmissione a società estera, che guarda caso è proprio quella Crown Castle che nel 2001 doveva entrare al 49% in Rai Way. Lo fa ovviamente con un contratto che le garantisce per 25-30 anni di essere trasmessa, perché sennò Rai Way diventa essenziale. Quindi, però, c'è un però, cioè quegli impianti sono strategici per il paese, non solo per la RAI, cioè cederli a un investitore magari straniero, una minoranza, poi però quando si entra in una società poi nei fatti si tende poi a crescere e si può diventare poi il socio di riferimento, quelli sono strategici per il paese più ancora che per la RAI, perché coprono l'intera popolazione e avendo con le frequenze da quegli impianti si può fare non solo televisione ma banda larga in mobilità. Cioè sono un asset strategico per il paese, per questo c'è anche chi ha detto magari facciamo entrare la Cassa Depositi e Prestiti, facciamone una rete di trasmissione non solo per la RAI ma per tutte le televisioni, insomma ci sono una miriade di proposte, forse avrebbero più valore insomma del fatto di dire semplicemente devi vendere per rifare i soldi che ti tolgo dal canone. Che è un po' poco, anche perché poi collocare in borsa a giugno, collocare in borsa un'azienda e poi fare un'offerta pubblica di acquisto e trovare un socio, mi sembra che non so quanto ci siano i tempi, o si rischia di vendere male. Lo più possibile, secondo me, è razionalizzare sulle sedi regionali, sicuramente sì. Non c'è più l'obbligo di averne una in regione, l'importante però è appunto è sganciare le sedi regionali dalle redazioni, cioè perché non è, sì. Si può accorpare la sede della Val d'Aosta con il Piemonte, avere una redazione, però devi avere poi l'informazione della Val d'Aosta del giornalista. Certo, naturalmente. Rai Way mi sembra una cosa un po' troppo importante come trasmissione che copre tutto il paese, perché poi la Rai, per concessione, sì. È quella che copre l'intera popolazione, molto più tu dici privati. Tu dici troppo importante per considerarla caso, solamente in un'ottica. Esatto, in un'ottica di cassa. Ti ringrazio, grazie a Marco Mele del Sole 24 Ore per averci aiutato a chiarire un po' di cose per il punto e l'analisi. Noi adesso passiamo da una telenovela, per modo di dire, che è quella della Rai, perché ce la trasciniamo da anni, ad un'altra, quella di Alitalia. Oddio, chi ci scrive state facendo del benaltrismo e siamo dei lecchini di Gasparri, ma che cosa vuol dire? Cioè, si sta cercando di ragionare, di analizzare la situazione e di capire anche quanto è importante questa Rai Way, che tagli effettivamente si possono fare, che poi gli sprechi in Rai ci siano, insomma, lo sappiamo benissimo. Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, in diretta da Doha, in Qatar. Ciao Gianni, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, alla fine, come si diceva, siamo alla conclusione della telenovela, forse, insomma. È arrivata la famosa lettera di Etihad, si chiude l'accordo, no? L'accordo si sta chiudendo, la lettera è arrivata su delle condizioni condivise, adesso ci sono dei passaggi mi sembrano più formali che sostanziali, salvo sempre gli imprevisti, ma venerdì ci sarà un consiglio di amministrazione dell'Alitalia che prenderà in esame la lettera. Se la risposta sarà sì, come sembrerebbe, però ci deve ancora essere, poi si metteranno a lavorare con gli avvocati per fare il contratto finale, un mese di negoziato certamente complesso, ma su punti che sono stati in buona parte già definiti. A quel punto noi, ecco, a metà luglio potrebbe esserci il contratto che porterà poi, una volta approvato dall'antitrust, a fare l'investimento di Etihad in Alitalia. Due snodi, Gianni, innanzitutto la famosa questione degli esuberi. Questo tema che è stato tenuto un po' così sotto traccia, senza allarmi, anche dai sindacati del governo, perché c'erano anche le elezioni. Non a caso è stato tenuto sotto traccia, Gianni, immagino. Guarda caso, pochi giorni dopo viene messo nitidamente, ci diranno se sono 2600 o 2800 o 2200, comunque questo è il numero degli esuberi chiesti da Etihad, cioè lavoratori che la compagnia degli Emirati Arabi ritiene debbano proprio uscire del tutto, non accettano che ci siano contratti di solidarietà, quindi come dire una cassa integrazione a rotazione, ma che vengano individuate figure che debbono uscire, quindi ci dovranno essere poi tanto una trattativa sindacale che però mi pare sarà veloce. Il governo, sì, vediamo come interverrà, perché non credo ci siano più requisiti per il pensionamento, già sono stati cacciati in questo modo, quindi non so come verranno poi coperti questi esuberi dal punto di vista degli ammortizzatori. E questo è un punto. L'altro punto, Gianni, che mi sembra sia stato un po' tenuto sotto traccia in queste ore, anche quello è Malpensa, perché è uno snodo politicamente rilevante, per così dire, da quel lato? Sì, questo tema è quello di una regolamentazione diversa del traffico a Linate, cioè l'aeroporto diciamo preferito per chi viaggia nell'area milanese, e di riflesso, o questo ha un riflesso anche su Malpensa, anche se il tema poi è quello soprattutto di Linate. Cioè la richiesta che non sappiamo ancora come il governo abbia deciso di intervenire, però la sostanza è la richiesta, siccome l'Italia ridurrà nel piano una serie di voli che fa oggi anche da Linate a Roma, ma non solo, e c'è una regolamentazione rigida dei voli da Linate fatta da ultimo col decreto Bersani bis 2001, Etihad, perché questi spazi liberati dall'Italia, gli slot, non vadano alla concorrenza, perché questo prevedono i regolamenti, le norme europee, se uno lascia che subentrino altri, chiedono una regolamentazione diversa, perché questi rimangono patrimonio della compagnia o delle compagnie alleate di Etihad come la Air Berlin o la Etihad Svizzera, la piccola Etihad regionale svizzera. Se questo avverrà, ecco, da capire come si vorrebbero mettere anche voli per Abu Dhabi a Linate. Non è ancora chiara la regolamentazione, che dovrà, sì, essere autorizzata poi dall'Unione Europea, quindi soggetta a contestazioni dei concorrenti, però più voli ci sono a Linate, di solito meno voli ci sono a Malpensa. Quindi, allora Gianni, non è ancora chiaro. Gianni, noi qua dobbiamo chiudere, io ti ringrazio tutta la squadra di Radio 24 qua dal Festival dell'Economia di Trento, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Davide Ciocia, Elena Ligios, in regia a Milano c'era Fabio Cantadori, in assistenza in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani da Milano alle 13 con Effetto Giorno. Per Focus Economia torna invece Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.